Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sì, oggi vi porto al mare, anzi facciamo proprio finta di essere già in riva al mare. Chiudete gli occhi. Quando cominciano a vedersi le prime turiste è il segno che sta arrivando l'estate. Signori, un riacca vi porta a fare il giro del mondo. No, grazie, andiamo con questa. C'è il tendalino più grosso. Ma dove lo trovo un altro lavoro come questo? Cullato come una creatura. Lo sapevo che prima o poi mi sarebbe successo qualcosa. Tu? Ci credi, l'amore? Voglio di baciarti. E a te cosa piace fare? Andiamo. Io tengo fissa in capo, non me lo riesco a levare dalla testa. Che l'amore è fatto di desideri, fiducia e sincerità. Io mo per te tutte queste cose le sento. Per questo sono sicuro che ti amo. Molte storie d'amore, vero, nascono al mare, ma noi non parleremo d'amore, lo fa per noi Barbara Alberti, la nostra guardiana del faro, ma parleremo di acqua, alghe, aria, sabbia. Questi sono gli ingredienti che fanno del mare una straordinaria e naturale beauty farm. Lo sapevano già gli antichi, ma oggi la loro efficacia è provata da numerose ricerche scientifiche. Non resta, cari amici, che tuffarci. Ah, che bello, mi piacerebbe fare una bella nuotata e ne parleremo anche di nuoto. Ho invitato un grande amante del mare che è tornato in studio a trovarci, Franco Confallonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confa. Buongiorno, ben ritrovati tutti, va bene dottor Confa, poi con questa atmosfera di mare sto veramente bene, quindi sono contento di essere di nuovo qua con voi, soprattutto in una puntata dedicata al mare. 800 24 0024, se non siete a bagno potete chiamarci, 349 238 6666. Pensi che bello, scappare al mare un giovedì mattina. Sarebbe il massimo, poi con questa grigia giornata di Milano ci farebbe bene da tutti i punti di vista. Intanto c'è mare e mare, noi possiamo scegliere la nostra vacanza anche in base all'effetto che vogliamo ottenere, sì. Allora, ad esempio, abbiamo bisogno di scaricare le tensioni, abbiamo bisogno di relax, di recuperare tono, di ritrovare energia. Basta chiederlo, basta dirlo al nostro numero verde, perché in linea con noi abbiamo il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Professore, il mare, come una grande mamma, risponde a tutti i nostri bisogni. Forse sto esagerando, ma c'è un po' di vero in quello che dico, perché c'è qualcosa di molto profondo che ci lega al mare, una sorta di affinità biologica che produce benessere fisico e mentale. Beh, il mare è veramente una nostra grande madre. L'origine della vita è nel mare, deriviamo tutti gli organismi viventi vengono dal mare, ma lasciando stare queste cose molto lontane e venendo alle cose molto più vicine, tuffiamoci nel tema di oggi, che è un tema fantastico, cioè il mare come fonte di cura, come fonte di benessere, come fonte di prevenzione, tutti gli elementi che sono prodotti dal mare, le alghe, la sabbia, i limi che sono i fanghi marini, ma il clima marino, quindi una varietà enorme di mezzi che sono anche mezzi terapeutici per farci star meglio, per farci star bene. Senta, io ho detto c'è mare e mare, a seconda di quello che vogliamo ottenere possiamo scegliere un mare piuttosto che un altro. Ci aiuta? Sì, questo è l'aspetto della climatologia marina, cioè di come il clima marino, di come l'ambiente marino influenza positivamente il nostro organismo, le nostre risposte dell'organismo. E classicamente, per fare una divisione più semplice, per far capire meglio i nostri ascoltatori, classicamente il clima marino si divide in due grandi categorie. Un clima cosiddetto stimolante, eccitante, che è un po' il clima degli oceani, dove ci sono grandi perturbazioni, il clima degli scogli, dove ci sono delle coste frastagliate, il clima stimolante è presente anche nel Mediterraneo. Un esempio più classico è la costa occidentale della Sardegna, alcune coste del Tirreno, alcune coste della Sicilia. poi esiste invece un clima marino, detto più sedativo, anche se è una parola estremamente esagerata forse in questo caso, ma un clima marino sedativo, indifferente, che è il clima di spiaggia, di quelle spiagge degradanti dove le condizioni atmosferiche sono più lievi, dove il vento è ridotto, la ventosità è ridotta, quindi pensiamo al nostro splendido clima dell'Adriatico, le spiagge dell'Adriatico che hanno una caratteristica più sedativa, mentre l'altro aspetto, come dicevo prima, è una caratteristica più stimolante. Una puntata oggi dedicata ai benefici di una vacanza al mare, ce l'eravamo promesso, avevamo dedicato una puntata intera alla montagna, molti di voi mi hanno scritto chiedendomi, aveva promesso una vacanza al mare, sì, stiamo andando in vacanza, in linea, non è ancora in vacanza, in linea con noi Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, che doveva venirci a trovare, ma al momento è solo in linea. Alessandro, ciao. Ciao Nicoletta, scusate per la voce, ma questo è un pegno d'amore, ho dovuto barattare per amore la pala a vento col condizionatore, questi sono i risultati. Senti Alessandro, voi nel numero di Star Bene avete dedicato un bellissimo servizio alla talassoterapia, sì, di cui ci occupiamo anche noi oggi. Abbiamo dedicato un dossier che si coniuga perfettamente con la divisione che hai fatto di questa bella trasmissione, che ci fa veramente venire voglia di essere da un'altra parte, perché appunto è tutta una cosa dedicata alla talassoterapia e abbiamo diviso appunto in sale, alghe, aria, sabbia, e poi abbiamo fatto anche una mini guida dei migliori centri di talassoterapia in Italia. È veramente pieno di cose, perché si possono fare tantissime cose col mare anche per conto nostro, dall'utilizzare le alghe in cucina a utilizzare la sabbia mentre siamo seduti sul bagnasciuga per farci un mini scrub alle gambe, sì, a respirare in un certo modo per ottenere il massimo dei benefici dal mare, perché è vero che le nonne, le mamme, non so la tua ma la mia, ci portava al mattino molto presto sulla battigia per, sì, ottenere il massimo delle cose, ma poi abbiamo perso un po' col tempo che passa questi vantaggi, queste saggezze, ma riscopriamo anche grazie alla scienza che sono fondamentali, che il mare fa benissimo. Non a caso anche a te mi sa, Alessandro, farebbe bene un po' di mare. Dovrei. Chiediamolo al professor Bonsignori, lo mandiamo al mare con questa voce, con questo abbassamento di voce? Lo mandiamo al mare a fare una bella passeggiata ionizzante, cioè praticamente camminare la mattina presto sulla linea di battigia, fare dei semplicissimi esercizi respiratori per respirare, come si diceva una volta, proprio a pieni polmoni l'aerosol marino, che è ricco di sali minerali benefici ed è ricco di ioni negativi, cioè quelle piccole particelle che sono invece estremamente positive per il nostro organismo. Pensate che in un ambiente come un ufficio o un ambiente molto inquinato, un abitacolo di un'auto, l'aria è ricca di ioni positivi, mentre sul mare, anche in alta montagna per la verità, l'aria è ricca di ioni negativi, che sono estremamente importanti per il nostro benessere. Allora, salutiamo Alessandro Pellizzari, che così non sforziamo la sua voce. Grazie, vi ricordo il numero in edicola, proprio con questo dossier dedicato alla talassoterapia. Alessandro, grazie. Grazie a voi. E allora, invece a voi chiedo, come, che cosa fate in una vacanza al mare? Perché scegliete il mare? Siete ancora indecisi? Volete sfruttare a pieno tutte le potenzialità di una vacanza marina? 800 24 00 24. Mario da Verona mi scrive: moglie incinta, che sarà il settimo mese ad agosto, che cosa consigliate? Professor Bonsignori, dove me la mandiamo? Beh, per la signora che è in stato di gravidanza è utile ovviamente un clima rilassante, più un clima relax che non un clima stimolante, quindi dovrebbe scegliere quelle linee di costa che sono, come dicevo prima, che hanno la presenza di queste bellissime spiagge degradanti e dove il clima non è particolarmente aggressivo, quindi con scarsa piovosità e scarsa ventosità. Sarà veramente una bella vacanza che avrà anche un delle risposte sicure sulla fisiologia, sull'organismo della signora. La climatologia marina non la scopriamo adesso. Pensate alle colonie marine degli anni 30. I bambini andavano al mare e ne traevano un grande beneficio per una serie di motivazioni. Quanto deve durare una vacanza al mare perché faccia bene, professore? Allora, per quanto riguarda l'aspetto talassoterapico, quindi l'aspetto prettamente medico, non si può fare meno di 12 giorni. Mm. Queste sono le indicazioni standard. Sì. Anche per poi avere l'adattamento al nuovo clima e quindi averne benefici. Per quanto riguarda invece quella che può essere chiamata anche una rimessa in forma, una breve pausa di relax e antistress, un respirare un'aria assolutamente priva di allergeni, pensate anche ai soggetti che sono affetti di patologie respiratorie come su base allergica, come la rinite, come l'asma, quindi un'aria priva di allergeni e ricca appunto di ioni negativi può essere anche sufficiente fare qualche break ogni tanto, i cosiddetti weekend lunghi, magari fatti con una certa periodicità. 800 24 00 24 daremo indicazioni anche a chi per questo weekend sceglie proprio di andare al mare. Dottor Confalonieri, è anche una bellissima palestra al mare, ci si può sbizzarrire, il professor Bonsignori ricordava la passeggiata ionizzante, c'è il nuoto, ci sono dei vantaggi anche molto evidenti e li avvertiamo subito nel camminare in acqua. Beh, intanto sono molto contento che abbia parlato il professor Bonsignori dei vantaggi anche del weekend lungo ripetuto con periodicità, che poi è forse il modo di utilizzare il mare più frequente per tanti di noi che hanno difficoltà magari a organizzarsi i 12-15 giorni, però il weekend lungo lo fanno abitualmente. Poi indubbiamente il mare è una palestra. Ecco, io direi, abbiamo parlato già degli effetti benefici della camminata, della passeggiata, soprattutto se fatta di primo mattino. Io proporrei anche un utilizzo alternativo del mare come palestra, abbinando un'attività dedicata alla resistenza, dedicata appunto all'apparato cardiovascolare, con un'attività maggiormente dedicata invece al tono muscolare e alla velocità, alla rapidità. Quindi magari impostare le nostre ore al mare, la nostra mezza giornata al mare, con una parte dedicata al gioco con i bambini piuttosto che a un po' di beach volley, piuttosto che a un po' di calcio o di racchettoni sulla spiaggia, e poi una nuotata defaticante, una nuotata lunga. Per chi sa nuotare va benissimo la nuotata completa, ma anche per chi non sa nuotare prendiamo una tavoletta, prendiamo un appoggio, usciamo e nuotiamo anche soltanto usando le gambe, sì, quindi in modo molto, molto tranquillo, magari dove tocchiamo, quindi andiamo in parallelo rispetto alla costa, che comunque è una scelta da consigliare anche al nuotatore esperto, il nuotare in parallelo rispetto alla costa, e così abbiniamo gli effetti di un allenamento intenso, quello legato al gioco e divertente, agli effetti di un allenamento molto più tranquillo, molto più rilassante, molto più aerobico, molto più cardiovascolare, che quindi quello del nuoto. È una buona occasione quindi per rimetterci in forma. Assolutamente. Professor Bonsignori, io vorrei parlare con lei anche di talassoterapia ci sono dei centri dove è possibile proprio beneficiare di questi elementi che opportunamente combinati ci regalano benessere, possono svolgere anche un'azione preventiva ma anche riabilitativa. Li prendiamo un po' in rassegna? Acqua, sabbia, sole, limi. Sì, sono i cosiddetti mezzi terapeutici, mezzi di cura. La talassoterapia, Nicoletta, si può considerare ormai a tutti gli effetti una vera e propria medicina termale, come del resto in molti paesi d'Europa questo avviene da tempo, la Francia ne è un esempio eclatante. I mezzi che abbiamo a disposizione sono numerosi. Nel termalismo classico abbiamo soltanto l'acqua minerale e il fango, l'acqua termale e il fango. In talassoterapia abbiamo l'acqua minerale, che è l'acqua marina, che come tutti ormai sanno è l'acqua minerale più completa in natura, contiene tutti gli elementi chimici che sono presenti in natura, quasi tutti. Abbiamo l'acqua appunto minerale, che è l'acqua marina, abbiamo i fanghi, che sono i limi, la sabbia, le alghe e il clima. Quindi abbiamo una serie di mezzi ulteriori che possono essere utilizzati sia da soli, ma meglio in combinazione. Allora, iniziamo a sentire i nostri ascoltatori che cosa è, come utilizzano un po' questo beauty farm all'aria aperta, perché vogliono andare al mare, che cosa ricavano da una vacanza al mare, se hanno scoperto un posto, un paradiso, e ci vogliono raccontare la loro esperienza. Ma intanto, professor Bonsignori, lei ha detto si possono fare trattamenti, si può usare il tutto, cioè, anche da soli. L'acqua, ad esempio, il dottor l'acqua marina è un'acqua straordinaria. Innanzitutto è un'acqua che non si potrà mai riprodurre in laboratorio, quindi non si possono trovare centri talassoterapici lontano dal mare, perché l'acqua marina non è riproducibile in laboratorio. Poi l'acqua marina ha tantissime proprietà, e che è molto simile all'acqua salsolomoiolica di alcune terme, sì. Quindi possiamo fare i bagni, i bagni nelle vasche, nelle piscine, nei massaggi, possiamo fare delle irrigazioni, possiamo fare delle inalazioni, possiamo fare degli aerosol, addirittura l'acqua marina si può anche bere, basta ovviamente ridurre l'eccessiva componente di sale. No, se noi riusciamo. Lei si farebbe delle belle sorsate, allora, d'acqua lì, da, non so, lei dove vive? C'è il professor Confalonieri, che è un esperto, ma in medicina sportiva una grande squadra inglese della Premier League sta usando il plasma di Quinton come un ricostituente minerale. Non è altro che acqua marina diluita al punto tale da ridurre completamente la esagerata salinità. Quindi lei pensi che ci quindi sono. Lo possiamo fare anche noi, cioè io no, sabato allora vado al mare, diluisco un po', mi faccio una bella bicchierata di acqua della Versilia. No, se no si rischia di avere dei problemi gastrointestinali. No, la formula molto grossolana sono due parti di acqua di mare a cui vanno aggiunte cinque parti di acqua oligominerale. Quindi si abbatte il contenuto di sali, che in genere è sui 33-34 grammi per chilo d'acqua marina, si abbassa a 7 grammi per chilo d'acqua, quindi una concentrazione 7 per 1000, la soluzione fisiologica è il 9 per 1000. Però non possiamo farlo da sola, no, da soli. Assolutamente, quello no, peccato. Avremo a disposizione un sacco. Perché bisogna prendere l'acqua in un luogo estremamente sicuro, in un luogo pulito, lontano da fonti inquinanti, e poi va diluita in maniera corretta. Però era utilizzata in passato, e ora una squadra inglese la sta utilizzando al posto dei cosiddetti famosi integratori che noi hai capito questi inglesi. Ecco, allora forza con degli utilizzi alternativi o un po' sfiziosi del mare. Devono utilizzarlo in modo alternativo. Certo, cos'è? Se no. Buongiorno Oscar da Treviso. Buongiorno. Grazie a voi. Io volevo dare un suggerimento, visto che negli ultimi tempi si sente, penso, parlare anche da voi molto di Nordic Walking. Sì. È una cosa molto interessante farlo su il bagnasciuga, anche andare a camminare o al mattino presto o verso il tramonto, la sera. E naturalmente romantico, Oscar, lei oltre, bastoncini, esatto, oltre a fare un grande allenamento fisico, perché se fatto correttamente ci riusciamo a muovere il 90% dei muscoli del nostro corpo, respiriamo anche della gran aria sana, insomma. Certo, senta Oscar, lei dove è stato di recente? Beh, io abito a Treviso e dunque il mare in provincia, il mare vicino a casa mia è 20-25 minuti, dunque quindi però, lì. Sì, sono là e la fortuna ho che ho anche le colline e le Dolomiti ad un'ora di strada, dunque insomma è Oscar, vive in un paradiso. Intanto voglio dare la parola al dottor Confalonieri prima di ricordarvi il nostro Daily Lab. Vorrei proprio che voi ci aiutaste a scoprire dei modi nuovi, magari che non sono inventati ora, ma ci diate degli spunti per utilizzare il mare e tutto quello che è al mare intorno. Dottor Confalonieri, sì, Oscar molto, ci ha dato già un esempio. Sì, molto rapidamente, premesso che il mare la sera è talmente coinvolgente sul piano emozionale che io me lo giocherei non per camminare, ma per altre situazioni. E questa sommato, ce la mettiamo via. Ecco, vale la pena anche da un punto fisiologico magari di farle al mattino queste camminate, però tornando seri, indubbiamente il Nordic Walking o comunque la camminata al mare ha dei vantaggi specifici molto molto significativi. Innanzitutto c'è tutto un lavoro di tipo proprio eccettivo, cioè miglioriamo la capacità di utilizzare il piede e la nostra capacità di equilibrio di cammino intelligente, quindi miglioriamo la nostra intelligenza motoria. Poi c'è un lavoro muscolare indubbiamente molto più significativo, e se lavoriamo con acqua relativamente alta, quindi che arrivi alle ginocchia o a metà coscia, c'è anche una facilitazione del ritorno venoso e della pompa muscolare che incide in modo importante. Quindi sicuramente è un esercizio che abbina almeno 3-4 caratteristiche estremamente importanti che lo rendono molto molto allenante. Nell'attesa dei vostri consigli vi ricordo di andare come ogni giorno a consultare i consigli dei nostri esperti, il Laboratorio del Benessere, il Daily Lab. Andate sul sito di Radio 24, cliccate, c'è la mia faccetta con delle mele, cliccate lì, andate, fidatevi e affidatevi. Essere e benessere. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare, sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Portatemi voi al mare, raccontatemi come trasformate la vostra vacanza al mare proprio in una remise en forme, a tutti i livelli, fisico e psichico. Abbiamo Dario che ci chiama da Catania. Buongiorno Dario. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione e un saluto ai vostri ospiti. E volevo portarvi una mia esperienza e anche vorrei un consiglio. Io ho 38 anni e da 16 anni faccio nuoto in piscina, però in realtà da 6 anni in qua si è riscontrato, forse per un movimento errato possibilmente, un'infiammazione diciamo ad un tendine che poi si connette alla cuffia rotatoria della spalla destra. Però in realtà da quando faccio nuoto certe distanze, 6-7 km in mare aperto, devo dire che il sole e il sale sono un toccasana, sostanzialmente dopo ogni nuotata di una certa distanza la spalla assolutamente non mi fa più male e non mi continua sostanzialmente a fare male. Ora, posto questo, quindi gli innegabili benefici, volevo chiedere io se in realtà altri diciamo agenti, o meglio più altro altri elementi, quale la sabbia che noi sostanzialmente abbiamo, potrebbe essere anche sabbia calda, potrebbe essere un beneficio praticamente per la mia articolazione. Grazie Dario. Professor Bonsignore, abbiamo detto che il mare può essere veramente un'occasione per prevenire, per continuare a stare bene, ma anche un modo per riabilitare alcuni problemi, no? Per risolvere alcuni problemi riabilitativi. Certo, la talassoterapia è un elemento di straordinaria efficacia per la riabilitazione, soprattutto quando si vuole riabilitare un soggetto che ha avuto un infortunio o un'operazione e si mette in acqua, perché c'è il grande effetto galleggiamento rispetto anche ad altre acque. Quindi si può caricare un'articolazione, caricare un muscolo, caricare un arto precocemente, quindi la riabilitazione inizia precocemente. Per cui l'effetto che sentiva Dario, sole, nuotate nel mare, eccetera, ma vedo che il dottor Confalonieri non è d'accordo. Dottor Confalonieri, no, perché? Non è che non sono d'accordo, diciamo che il problema di Dario è un po' particolare. È diverso. Certo. Nel senso che lui ha il problema tipico di chi nuota tanto senza fare un'adeguata prevenzione e quindi l'infiammazione della cuffia del rotatore della spalla. Quindi io direi la sua grande fortuna è che siamo agli inizi, nel senso che nuotare in mare con un maggior galleggiamento, come diceva giustamente il professor Bonsignori, e quindi con minore resistenze, riduce il sovraccarico e riduce il dolore. In più la sabbia, il caldo, tutte queste situazioni riducono ulteriormente la situazione infiammatoria. Però indubbiamente c'è un campanello d'allarme, quindi il nostro consiglio all'ascoltatore è: attenzione, stai sfruttando troppo la tua spalla, quindi puoi continuare a nuotare, però è fondamentale tutti i giorni, prima di nuotare, fare i tuoi 15 minuti di ginnastica preventiva, la ginnastica proprio di riequilibrio di quella che è la muscolatura della spalla. Eventualmente poi sul nostro lab potremmo mettere questi esercizi che sono importanti per tutti coloro che vanno a nuotare, proprio per evitare che questa situazione in prospettiva ti impedisca di continuare con il nuoto. Professor... è un ottimo consiglio. D'accordo, io professore. Sono perfettamente d'accordo. Io vorrei però spostarmi adesso sulle patologie che possono beneficiare di una vacanza al mare o di trattamenti talassoterapici. Vogliamo ricordarli? Le azioni sono molteplici. Si va per esempio dalle forme delle reumoartropatie croniche, cioè in parole semplici per l'artrosi, per le fibromialgie, ci sono dei grandissimi risultati. Alcune forme di patologie della pelle che trovano grandissima risposta, penso alla psoriasi, anche all'acne oppure a certe forme di dermatite seborroica. Altri aspetti sicuramente che trovano una grande indicazione sono certe affezioni delle vie respiratorie, come si diceva anche quando parlavamo del clima. Possiamo fare degli aerosol con delle macchine termali importanti per le forme anche di bronchite cronica, ma anche di rinopatie allergiche, allergie delle vie respiratorie superiori e inferiori. E poi un'altra indicazione importante è quella della insufficienza venosa e linfatica degli arti inferiori. Quindi ci sono dei percorsi acquatici con o senza idromassaggi che servono appunto a questo tipo di risposta. Senta professore, noi stiamo parlando di talassoterapia e lei ha detto che il mare è l'acqua minerale per eccellenza, ma che differenza c'è tra un trattamento termale e un trattamento talassoterapico? Da un punto di vista applicativo quasi nessuna, perché ci sono le vasche termali che sono simili alle vasche talassoterapiche, sì. Le piscine termali sono simili alle piscine talassoterapiche, però... l'aerosol, però è la differenza chimica e biologica che fa un'azione completamente diversa. Ci sono le acque sulfuree che sono acque termali che hanno un certo tipo di azione, le acque bicarbonate un altro, le acque marine sono simili alle acque salzobromoiodiche, quindi hanno delle indicazioni più specifiche rispetto ad altre. Le sulfure hanno delle azioni particolari sulle vie respiratorie, le marine diverse, quindi è come si utilizza un farmaco quando si va da un medico sì. Da uno specialista e c'è una prescrizione. Quando si va da un medico termalista, il medico termalista consiglia o l'acqua sulfurea o l'acqua bicarbonata o l'acqua salzobromoiodica o l'acqua marina a seconda del problema che certo. Sta davanti. E allora voi avete bisogno di un consiglio, non fate che chiamare l'800 24 00 24, perché il professor Bonsignore è a nostra disposizione, così come il dottor Confalonieri. Lucia da Pavia ne approfitta. Buongiorno Lucia, e fa bene, eccoci qua. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere, per chi soffre di tiroide, sì. È vero che il mare è sconsigliato, ma qualsiasi ora del giorno, cioè, oppure c'è qualche ora cioè in cui magari una persona e può... Poi è un problema di durata, di vacanza, o invece il mordi e fuggi va bene o va male? Professor... Io intendo di vacanza. Professor Bonsignori, allora, mare e tiroide. È sconsigliato e controindicato solo se è un ipertiroidismo, quindi c'è un'esagerata funzione della ghiandola tiroidea, e non è trattato. Quindi quando è un ipertiroidismo o molto una tirotossicosi, si dice, no. In fase molto importante, acuta, o addirittura un ipotiroidismo difficile da trattare, allora si sconsiglia. Meglio, meglio la montagna. Meglio un altro tipo di clima. Però quando anche un soggetto che ha problemi tiroidei, ha avuto un morbo di Basedow o una tiroidite di Hashimoto e è in trattamento, questo soggetto può tranquillamente recarsi al mare perché non avrà effetti secondari negativi. Francesco da Pavia, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Francesco, andiamo al mare, dai. Andiamo. Che si andiamo fa? Altro che. Domani è venerdì, domani finisco di lavorare alle... No, finisco un po' prima, di solito finisco un 4 alle 5, di solito vado in treno in quanto io e mia moglie siamo non vedenti, domani ci va bene perché ad Alassio ci vengono anche i miei, quindi alle 5 siamo là. Ecco, forse allora... ci sarà anche il dottor Confalonieri. Sì, troverà anche me domani ad Alassio. Senta Francesco, Francesco, come un non vedente, che cosa ti può raccontare un non vedente di un'esperienza al mare? Perché il mare è un continuo stimolo di profumi, l'aria frizzantina, dovrei avere un'ora per parlarne. Senta, se volete mi metto a disposizione per parlarne e disquisire. Facciamolo in un'altra puntata, ma intanto Francesco, in due parole devo dare la linea. Libertà totale. Libertà totale è una cosa diversa rispetto al, al tran tran quotidiano, perché c'è tutto quel qualcosa in più che ci rende diversi. Vero? Glielo dice uno che fino all'81, io ho 36 anni, fino all'81 vedevo, a 7 anni ho avuto un grave problema al nervo ottico, quindi le ho provate tutte e due. E le dico, Alvaro, ho ritrovato la libertà, il nuoto, la canoa, che ne so, tante tante esperienze che purtroppo il veder meno, certo. su strada, sì, ok, bastoni bianchi, ok, cane guida, quel che però, vuoi, però... Però Francesco, buona Lassio allora con sua moglie. Essere e benessere. Ariel, ascoltami, il mondo degli umani è un pasticcio, la vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare. E noi andiamo in fondo al mar, dove c'è uno sterminato orto subacqueo, e troviamo anche l'insalata, una delle insalate più nutrienti, alleata anche della nostra bellezza, la grande famiglia delle alghe. In linea con noi abbiamo la professoressa Gabriella Fabrocini, professore di dermatologia all'Università di Napoli. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei. Allora, che cos'hanno le alghe di così speciale? Beh, le alghe marine assorbono e concentrano le sostanze minerali disciolte nell'acqua, per cui contengono minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi, proteine, insomma tutto quel cocktail di sostanze vitali che servono a fare del bene alla nostra pelle e al nostro corpo. Chiaramente a seconda della tipologia di alghe possiamo avere un'attività idratante, dermopurificante, possiamo avere un'attività astringente, per esempio sulle ghiandole sebacee. Insomma, ci sono tanti impieghi e ci sono tanti tipi di alghe. E le alghe sono quelle più legate al mare, sono sicuramente le alghe rosse, mentre a dispetto di quello che si pensa che possano essere le alghe verdi, sono invece le alghe rosse più frequentemente le vere e proprie alghe marine. E a cosa servono? Come ci aiutano le alghe rosse? Beh, le alghe rosse ci aiutano molto perché sono ricche di principi attivi e soprattutto a base di polveri finissime, sì, che riescono ad avere un effetto antiossidante molto marcato, riescono a combattere quelli che noi chiamiamo i radicali liberi, i responsabili del nostro invecchiamento. Professor Bonsignori, alghe naturalmente anche nei trattamenti di talassoterapia. Sì, ci sono dei trattamenti dove le alghe servono come arricchimento, per esempio in un bagno talassoterapico ci sono delle alghe micronizzate che sono preparate soprattutto in istituti francesi, che vengono aggiunte al bagno marino e quindi hanno una notevole funzione, come diceva la professoressa, anche a livello proprio immediato come idratazione e rimineralizzazione della pelle. Sono uno straordinario strumento anti-età, si sta studiando proprio la talassoterapia proprio come una nuova indicazione proprio la medicina di indirizzo estetico, e le alghe in questo rientrano. Campo e le alghe rosse, come giustamente diceva la professoressa Fabrocini, autrice insieme a Pucci Romano e a Lorella Cuccarina di A tavola non si invecchia. A proposito, professoressa Fabrocini, vediamo che le alghe sono anche ingredienti di numerosi supplementi. Sì, sicuramente. Attualmente c'è una riscoperta delle alghe anche come supplementi dietetici per aiutare l'attività antinfiammatoria. Per esempio pensiamo alla Camellia sinensis, che si riscontra nel tè verde, ricca di polifenoli, in cui c'è l'obiettivo della riduzione dei danni dell'ultravioletto e quindi sempre dei radicali liberi. O ancora la mimosa del Brasile, che è ricca di tannini e flavonoidi. Il mamaco, che è una vera e propria corteccia di gioventù, ricca di polisaccaridi ad alto peso molecolare o ancora ricchi di omega 3. I giapponesi questo l'hanno scoperto prima di noi, tant'è vero che loro nel cibo che propongono le alghe usano una parte molto integrante del corpo. Ora noi ci stiamo arrivando un po' più tardi come occidentali, però, ma in questo libro sottolineiamo tante alghe che possono avere queste proprietà, per esempio la zuppa di ceci e le alghe di kombu, che danno delle proprietà particolari che quindi possono aiutare la rivitalizzazione della nostra bellezza e della nostra pelle e aiutare a combatterci gli anni, a combattere gli anni che passano. Grazie alla professoressa Fabrocini, e noi ci spostiamo in cucina. Insieme a noi c'è il nostro chef preferito, Andrea Ribaldone, chef della fermata. Andrea, ciao! Ciao Nico e buongiorno a tutti. Senti Andrea, abbiamo parlato di alghe, siamo partiti dalla bellezza, dai trattamenti che vengono fatti nei centri di talassoterapia, possiamo metterle anche in cucina le alghe? Io non le ho mai provate, devo dire. Direi che sono ottime, ad esempio io in questi giorni sto facendo questa zuppa di alghe, alga kombu, come diceva la dottoressa, che è un'alga verde, la trovate in erboristeria facilmente, non è una cosa che... Ma di che cosa sa? Ecco, ha un sapore marino, dovete semplicemente metterla a bagno in acqua fredda, sì. È secca, la trovate in erboristeria secca, la lasciate a bagno per una decina d'ore finché proprio si reidrata e diventa molto morbida, un po' gelatinosa, sì. Rilascia un gusto che è quasi come il mare, ecco, quindi è molto molto buono. Scusa, ma io la metto a bagno 10 ore, quindi io vado a dormire e metto a bagno, metto a dormire anche le alghe in acqua fredda. Poi le tiro fredda. Su e cosa ne faccio? Scaldi il brodo fino a 80 gradi, poi andate a occhio, basta che l'acqua non bolla quando la sentite molto calda, che non bolla, se avete un termometro meglio ancora. Sì. E poi aggiungete un pesce che vi fa piacere, e quindi può essere l'orata, il branzino, o andiamo anche su pesci meno conosciuti ma molto buoni, come che ne so, il pesce lama, oppure lo sgombro, il sugarello, quindi usate sempre questi pesci un po' poveri e sono buoni. Ottimi. Lo aggiungete, lo fate pulire dalla pescheria e lo fate bollito in questo brodo fatto con l'alga. Prende un gusto marino delicato rispetto al pesce e trovate un pesce bollito freschissimo, buonissimo, da servire in tavola. Fantastico, pronto. Andrea, proverò, però se non mi piace, Andrea, vengo direttamente alla fermata e porto anche il professor Bonsignori e Franco Confalonieri, che ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio in redazione Laura Vanossi, in regia Paolo Corleoni, ve l'ho già detto. A domani, grazie a tutti. Essere e benessere.